Stentai a riconoscere il mio compagno Bloch, che adesso, d'altronde, aveva assunto non solo lo pseudonimo, ma il nome di Jacques du Rosier, sotto il quale ci sarebbe voluto il fiuto di mio nonno per riconoscere la dolce vallata dell'Hebron e le catene d'Israele che il mio amico sembrava avere definitivamente spezzate. In effetti, un'eleganza inglese aveva completamente trasformato la sua figura e passato la pialla su tutto ciò che era possibile portarne via. I capelli, un tempo riccioluti, erano pettinati lisci con la riga in mezzo e luccicavano di brillantina. Il naso era ancora robusto e rosso, ma sembrava più che altro tumefatto da una sorta di raffreddore perpetuo che poteva spiegare l'accento nasale con cui snocciolava pigramente le sue frasi, giacché aveva trovato, oltre che una pettinatura adatta al suo colorito, anche una voce per la sua pronuncia, in cui la rinolalì ad un tempo prendeva la sfumatura di un disdegno d'articolare che s'accordava con le pinne infiammate del suo naso. E grazie alla pettinatura, all'eliminazione dei baffi, all'eleganza, al tipo, alla volontà, quel naso ebreo scompariva, così come una gobba ben aggiustata sembra quasi dritta. Ma a cambiare il significato della sua fisionomia era soprattutto, al primo apparire di Bloch, un minaccioso monocolo. L'elemento di meccanizzazione che quel monocolo introduceva nel volto di Bloch lo dispensava da tutti gli ardui doveri cui un volto umano è soggetto: dovere d'essere bello, d'esprimere intelligenza, benevolenza, forza. La sola presenza di quel monocolo dispensava a priori dal chiedersi se il volto di Bloch fosse bello oppure no, come davanti agli oggetti inglesi di cui il commesso d'un negozio dice che sono estremamente chic, dopodiché non abbiamo più il coraggio di chiedere a noi stessi se ci piacciono. D'altra parte, Bloch si installava dietro il cristallo di quel monocolo in una posizione non meno altera, comoda e distante che se fosse stato quello del finestrino d'una 8 balestre. E per accordare il volto ai capelli lisci e al monocolo i suoi tratti ormai non esprimevano più nulla. Bloch mi chiese di presentarlo al principe di Guermantes. Non vidi nella cosa nemmeno l'ombra delle difficoltà in cui m'ero dibattuto la sera che ero stato per la prima volta a un ricevimento in casa del principe e che, allora, mi erano sembrate naturali, mentre adesso presentargli un suo invitato mi sembrava semplicissimo e mi sarebbe parso semplice persino permettermi di portargli davanti e presentargli qualcuno che non avesse invitato. Era perché da quel tempo lontano ero diventato un intimo, sebbene da qualche tempo dimenticato, di quel mondo di cui ero allora un novizio? Oppure perché, al contrario, non essendo un vero uomo di mondo, tutto ciò che per loro costituisce un problema, per me non esisteva più una volta caduta la timidezza? O perché, dal momento che gli esseri avevano a poco lasciato cadere davanti a me il loro primo e spesso il loro secondo e il loro terzo aspetto finto, io sentivo dietro la sprezzante alterigia del principe una grande avidità umana di conoscere degli esseri, di fare la conoscenza persino di quelli che affettava di disprezzare. Era perché anche il principe era cambiato, come tutti quegli insolenti della giovinezza e della maturità, cui la vecchiaia insegna la sua dolcezza, tanto più che le persone nuove e le idee sconosciute contro cui ricalcitravano le conoscevano di vista da molto tempo e le sapevano largamente ammesse da altri, soprattutto se alla vecchiaia s'aggiunge, come coadiuvante, qualche virtù o qualche vizio che estenda le relazioni, o la rivoluzione provocata da una conversione politica, come quella del principe al Dreyfusismo. Bloch mi interrogava, come facevo io al tempo del mio ingresso in società, come mi capitava ancora di fare, sulle persone che vi avevo conosciute un tempo e che erano non meno lontane, non meno separate da tutto, delle persone di Combray che avevo spesso cercato di situare esattamente. Ma Combray era per me una forma assolutamente separata, assolutamente impossibile da confondere col resto, come un puzzle che non sarei mai riuscito a collocare nella carta della Francia. Insomma, il principe di Germain non può darmi nessuna idea né di Swann né del signor di Charlieu? Mi chiedeva Bloch, del quale avevo a lungo imitato il modo di parlare e che sovente imitava adesso il mio. Nessuna. Ma in che cosa consisteva la differenza? Sarebbe stato necessario farvi conversare con loro, ma è impossibile. Swann è morto e il signor di Charlieu non se la passa molto meglio, ma le differenze erano enormi. E mentre l'occhio di Bloch brillava all'idea di che cosa potevano essere stati quei personaggi meravigliosi, io pensavo che gli stavo esagerando il piacere ricavato dalla loro compagnia, giacché non ne avevo mai provato che quando ero solo, e l'impressione delle vere diversità. Non esiste che nella nostra immaginazione. Bloch se ne accorse. Forse mi dipingi tutto più bello di com'era, mi disse. Per esempio la padrona di casa, qui, la principessa di Germain. D'accordo che non è più giovane, ma non è poi passato tanto tempo da quando mi parlavi del suo fascino incomparabile e della sua meravigliosa bellezza. Sì, ammetto che ha un gran portamento e ha davvero gli occhi straordinari che dicevi, ma tutto sommato non mi sembra il prodigio di cui mi parlavi. Ha molta classe, è chiaro, ma... Fui costretto a dirgli che non stava parlando della stessa persona. In effetti, la principessa di Germain era morta e il principe, rovinato dalla disfatta tedesca, aveva sposato quella che era stata Madame Verdurin. Ti sbagli. Ho cercato nel Gotha di quest'anno, mi confessò ingenuamente Bloch, e ho visto che il principe di Germain abita nel palazzo in cui ci troviamo ed è sposato nel più splendido dei modi con... Aspetta, ora mi viene in mente... con Sidonie, duchessa di Duras, nata de Beau. In effetti, Madame Verdurin, poco dopo la morte del marito, aveva sposato il vecchio duca di Duras, rovinato, che l'aveva resa cugina del principe di Germain, ed era morto dopo 2 anni di matrimonio. Si era trattato, per Madame Verdurin, di una transizione utilissima, e adesso, grazie a un terzo matrimonio, era principessa di Germain e occupava nel Faubourg Saint-Germain una posizione preminente, che avrebbe destato grande stupore a Combray, dove le signore di Rue de l'Oiseau, la figlia di Madame Goupil e la nuora di Madame Sazerat, nel corso degli ultimi anni, prima che lei diventasse la principessa di Germain, avevano detto sogghignando «la duchessa di Duras», come se si fosse trattato d'una parte impersonata da Madame Verdurin in teatro. Anzi, poiché il principio delle caste esigeva che Madame Verdurin morisse Madame Verdurin, quel titolo, che si supponeva non le conferisse alcun nuovo potere mondano, faceva più che altro cattiva impressione. Far parlare di lei, espressione usata in tutti gli ambienti per una donna che ha un amante, poteva esserlo nel Faubourg Saint-Germain per quelle che pubblicano dei libri, nella borghesia di Combray per quelle che fanno matrimoni, in un senso o nell'altro, sproporzionati. Quando sposò il principe di Germain, sicuramente dissero che si trattava di un falso Germain, di un imbroglione. Per me, in questa identità di titolo, di nome, a causa della quale c'era ancora una principessa di Germain che non aveva alcun rapporto con quella che mi aveva tanto affascinato e non esisteva più, e m'appariva come una morta indifesa e derubata. C'era qualcosa d'altrettanto doloroso che nella vista degli oggetti appartenuti alla principessa Edwige, e di cui ora, come del suo castello, come di tutto ciò che era stato suo, era un'altra a godere. La successione al nome è triste come tutte le successioni, come tutte le usurpazioni di proprietà, E sempre, senza interruzione, ci sarebbe stata una fiumana di nuove principesse di Germain, o meglio, millenaria, sostituita d'età in età nel suo ruolo da una donna diversa, una sola principessa di Germain, ignara della morte, indifferente a tutto ciò che cambia e ferisce i nostri cuori, e il nome avrebbe richiuso sopra i corpi, via via inabissati, la sua calma immutabile e remota. Certo, anche il cambiamento esterno dei volti, a me già noti, non era che il simbolo di un cambiamento interiore, avvenuto giorno per giorno. Forse quelle persone avevano continuato a fare le stesse cose, ma giorno per giorno la loro idea di sé e delle persone che frequentavano aveva subito una piccola deviazione, e così, nel giro di qualche anno, sotto gli stessi nomi, essi avevano amato altre cose, altri esseri. E sarebbe stato strano se loro stessi, diventati altre persone, non avessero avuto nuovi volti. Fra i presenti c'era un uomo importante che in un processo famoso aveva fornito una testimonianza il cui unico valore consisteva nella sua alta moralità, di fronte alla quale giudici e avvocati s'erano unanimemente inchinati e che aveva avuto come effetto la condanna di due persone. Quando fece il suo ingresso, vi fu dunque un moto di curiosità e di deferenza. Era Morel. Io ero forse il solo a sapere che era stato mantenuto da Saint-Louis e contemporaneamente da un amico di Saint-Louis. Malgrado questi ricordi, mi salutò con piacere, sebbene con riserbo. Ricordava il tempo dei nostri incontri a Balbec, e quei ricordi avevano per lui la poesia e la malinconia della giovinezza. Ma c'erano anche persone che non potevo riconoscere per la ragione che non le avevo mai conosciute, giacché in quel salotto, oltre che sui singoli esseri, il tempo aveva compiuto il suo chimismo anche sulla società. Quell'ambiente, nella cui natura specifica, definita da certe affinità che vi attiravano tutti i grandi nomi principeschi d'Europa e dalla repulsione che ne allontanava qualsiasi elemento non aristocratico, avevo ravvisato una sorta di rifugio materiale del nome Germain, al quale esso forniva la sua ultima realtà. Quell'ambiente aveva subito a sua volta, nella sua intima costituzione che avevo creduto stabile, un'alterazione profonda. La presenza di persone che avevo viste in ambienti affatto diversi e che mi era parso non dovessero mai penetrare in questo, non mi stupì quanto l'intima familiarità con cui vi erano ricevute, chiamate col nome di battesimo. Un certo sistema di pregiudizi aristocratici, di snobismi, che un tempo allontanava automaticamente dal nome Germain tutto quanto non si armonizzava con esso, aveva smesso di funzionare. Certuni, Tosizà, Klein-Michel, che al tempo del mio ingresso in società davano grandi pranzi a cui non invitavano che la principessa di Germain, la duchessa di Germain, la principessa di Parma, avevano in casa di queste il posto d'onore e passavano, forse a ragione, per quanto di meglio ci fosse nella società ad allora, erano passati senza lasciar traccia. Si trattava di stranieri in missione diplomatica tornati nel loro paese. Forse uno scandalo, un suicidio, un rapimento aveva impedito la loro ricomparsa in società, o forse erano tedeschi. Ma il loro nome doveva il proprio lustro unicamente alla posizione che occupavano allora, e più nessuno lo portava. Se chiedevo di loro, non si sapeva nemmeno di chi stessi parlando, e qualcuno, cercando di compitarne il nome, pensava a degli avventurieri. Le persone che, secondo il vecchio codice sociale, non avrebbero dovuto trovarsi lì, avevano come migliori amiche, con mia stupefazione, persone di grande nascita che erano venute ad annoiarsi dalla principessa di Germain solo in virtù delle loro nuove amiche. Ciò che più caratterizzava questa società era, infatti, la sua straordinaria tendenza al declassamento.